As I walk this heart alone, I wonder exactly why it is I leave, even when there's nothing there for me to return to other than blind faith with a lack of believing. And not to say that I have nothing, I have everything, and I am great. Il libro Ultimi, di cui si parla in questa puntata di A Parole in Breve, è spiegato già in termini chiari dal suo sottotitolo, Inchiesta sui confini della vita. I confini, che sono da Rita Pennarola, condirettrice del mensile d'inchiesta La Voce delle Voci, sono quelli della gravidanza e della morte cerebrale. Diviso in due parti speculari, l'obiettivo di questo libro, appena pubblicato da Tullio Pironti Editore, è quello di andare al nodo dell'informazione e soprattutto di raccontare ciò che di solito non finisce sulle pagine dei giornali, se non per scopi di puro sensazionalismo. Accanto a crimini, abusi e ignoranza della legge, esiste una pletora di operatori sanitari che agisce non sulla base degli interessi del paziente o dei pazienti, nel caso di una donna e di un embrione o di un feto. Alcuni di questi interessi sono in stretta connessione alla carriera, o meglio, al carrierismo. Primariato e internati distribuiti non sulla base di conoscenze e competenze, ma di clientelismi, affiliazioni politiche, se non di gruppi di interesse. Ma soprattutto, nel caso specifico dei trapianti, ci si muove per preservare e possibilmente incrementare i finanziamenti stanziati per strutture sanitarie di cui forse non si sentirebbe la mancanza, come nel caso di due reparti per il trapianto del fegato dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, in quota rispettivamente a centro-sinistra e a centrodestra. Ma al di là di cattive pratiche, quando non di espliciti reati, come la sopravvivenza del fenomeno degli aborti clandestini, per quanto ridotto dall'introduzione della legge 194, e per quanto strumento per marginalizzare determinate fasce sociali, come quello delle donne immigrate, il cuore di questo libro ruota intorno a una domanda. Quanto se ne sa davvero, dal punto di vista scientifico, dei confini della vita? Quanto una donna che decide per l'interruzione di gravidanza viene informata di ciò che le accadrà e delle alternative? E soprattutto, quanto corretto è il concetto di morte cerebrale, sul quale la comunità scientifica, o almeno una sua parte tutt'altro che marginale, sta iniziando a riflettere in vista di una sua riformulazione? I casi di risvegli raccontati dalla cronaca sarebbero il segnale di un malfunzionamento, in primis concettuale e poi operativo, di superficialità nel constatare l'interruzione dell'attività del cervello danneggiato da un evento traumatico fisiologico, di sbrigatività nell'espletamento delle pratiche per l'autorizzazione all'espianto, di brutalità anche verso le famiglie a cui non viene concesso il tempo di riflettere di fronte al dramma di un congiunto definito cerebralmente morto ma fisicamente ancora vivo. L'augurio è che il libro di Rita Pennarola sia destinato a scatenare un dibattito anche acceso, a sinistra prima che altrove, perché la scienza non sia un feticcio per campagne ideologiche abbracciate senza la dovuta informazione, e perché si riformuli il concetto di ultimi, di coloro che non hanno voce. E altro augurio è che la medicina possa avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'etica e dalla filosofia, senza l'inquinamento di oltranzismi, religiosi o laici che siano. Come si legge in coda al libro, le migliaia di medici che ogni giorno, in Italia e nel mondo, procedono a interventi di espianto-trapianto in piena scienza e coscienza, sono certi che esista un netto confine a separare la morte cerebrale dagli stati di coma. Almeno, dice Chiara Mantovani, medico e cattolica, per quel che ne sappiamo finora. Perché il cuore del dibattito che ci appassiona e ci dilania, al di là di tutti gli abusi, le leggi e le violazioni o dei singoli casi clinici, sta proprio qui, in quel poco più del 10% di quei 100 milioni di neuroni del cervello umano che la scienza è finora riuscita a conoscere. Un dibattito urgente, insomma, da fare quanto prima, un dibattito per la vita e per non prestare il fianco a barricate ideologiche, un dibattito da iniziare ora, come canta Alison Krauss, accompagnando queste parole.